Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. No! Cioè, allora ti spiego. Caro Parenzo, immagino che tu conosca la vicenda buonasera, di quella. Sì, no, buonasera, non lo devi dire mai più. Buonasera. Non lo devi pronunciare mai più questa parola di buonasera. Mai più. Né buonasera, né arrivederci. Buonasera a lei e ai nostri no, ospiti. Ma non, basta, e non voglio questa roba. No. E agli amici di Libero, di cui poi parleremo, del quotidiano Libero. Allora, immagino sì. Che tu conosca questa vicenda del Vicentino, di quel paese del Vicentino dove c'è sì. Stata una rapina, sì, una sparatoria, è morto un bandito, il benzinaio, sì. Eccetera, eccetera. Sì. L'assalto alla gioielleria fallito, sì. I sì. Malviventi che sparano, il benzinaio sì. Che spara alle gambe, così almeno dice, di uno di questi malviventi e questo muore dissanguato, eccetera, eccetera. La cosa incredibile, a mio parere, la cosa incredibile è che la famiglia di quello morto, la famiglia del rapinatore ucciso, una famiglia di Rom, ebbene, ha intenzione di chiedere i danni, il risarcimento danni, per la morte, del signor, non so nemmeno come si chiama, di quel tizio che è andato a rapinare, pistola in mano, la gioielleria. Vogliono il risarcimento danni, cioè la legge gli l'immagine, la legge come dici scusa? No, la legge gli consente di adire un'azione sì, legale, quindi lo faranno, poi dopodiché chiaramente va bene, allora, questo è un rapinatore, non era un... una suora non cioè era... Tu sei d'accordo col fatto che la famiglia chiede il risarcimento no, danni? No, io dico che la legge gli consente questo, lo stato di diritto è anche questo, poi ci sarà un processo che lo deciderà. Ragazzi, ma questo qua è andato a rapinare ma è un ladro. Quello ma un ladro. Era armato, questo era ha risposto al armato. Fuoco. Ho detto solo che la legge gli consente alla, famiglia, vabbè. Che sia Rom, che sia Bubù, che sia Padano, che sia De Berghem, che sia vabbè, di Catania. Ma questo è scontato che la legge gli consente. Uno può dire quello consente. Che vuole, uno può dire anche voglio fare il Presidente della Repubblica. Che beh, vuol dire? No, però, chiedere risarcimento danni per cosa? Per essere andato a fare la rapina? Cioè io vado a fare una rapina, muoio, ucciso, pistola in mano, muoio e ci sta che muori pistola in mano quando fai una rapina, poi chiedo risarcimento danni perché mi hanno ammazzato. Ma è una cosa pazzesca, dai. Pazzesco, dai, pazzesco. Scusami, però. Dovrebbero avere il pudore. Vabbè, il pudore di non chiedere un euro e di subire un processo. Di subire un processo. Una cosa famiglia di rapinatori, di questi rapinatori Rom, dovrebbero stare in silenzio tombale. In silenzio tombale. Fino alla fine del processo. Silenzio asso, invece no, chiedono risarcimento danni. Una cosa pazzesca, dai. Pazzesca. Ovviamente adesso c'è tutta questa solidarietà anche politica nei confronti del benzinaio, questo Stacchio, signor Stacchio, che compare in televisione, anche colpito personalmente, sempre con questa, io non so se è l'unica cosa che mette addosso oppure sta lavorando ed effettivamente vanno là a rompere i coglioni le telecamere, però appare in televisione sempre con la tuta dell'Eni là, quella della però è curiosa benzina, questa cosa di benzina. Sì, l'ho visto oggi in 2-3 collegamenti sempre con la tuta da benzinaio. Chi deve avere benzina? Ah no, ma è curioso, cioè, vabbè, comunque stacchio. Lui indifferente, mi rimaneva lì indifferente praticamente. E allora ho sparato un colpo per aria troppo intimidatorio, fatto una volta risposta, lui spara un colpo anche lui, non so dove l'abbia sparato. Ma lui dove spara? Spara in aria o spara a te? No, mi puntava l'arma e sparava. Quindi lui comincia a spararti addosso? Ha sparato, la direzione del proiettile mi è passata vicino, è andato a conficcarsi lì sulla macchina. Gli ho sparato alla gamba. E avanzava. Verso di te? Verso di me. Poi ho sparato praticamente all'altezza delle gambe perché continuava a sparare, e gli schizzava i proiettili per terra e così facendo praticamente, non so, è stato ferito alle gambe, alla gamba. Allora ha capito, allora ha desistito, ha lasciato praticamente, non ha più sparato. Ma quello che va giù duro è il proprietario della gioielleria che dice: maledetti bastardi dell'est, sentite. Zancan. Noi per lavorare rischiamo la vita ogni santissimo giorno. Anni fa siamo stati sequestrati in casa, che avevano ancora i bambini piccoli, do comando di maledetti bastardi dei paesi dell'est e non glielo auguro alla peggio bestia di questa terra. Poi dice: non riapro, volete che ci ammazzino? Ma io mi chiedo, a questo punto lei la tiene aperta ancora questa gioielleria? Assolutamente no, è già chiusa. No, ma la riaprirà mai? È chiusa perché non c'è più lo stimolo, ma cosa dobbiamo aspettare? Che ci ammazzino? Che ammazzino i miei dipendenti? Ah. Guardi che l'altra sera ci è mancato poco, so. Secondo Feltri è un incidente sul lavoro, cioè tu puoi essere ammazzato, siccome fai il rapinatore, se vai a fare una rapina ci sta che ti ammazzano. Ma è giusto, ha ragione Feltri. Ma ha ragione Feltri. Se uno di questi quattro banditi muore durante la rapina, muore per un incidente sul lavoro, chiaro? Se un carpentiere cade dal terzo piano, da un'impalcatura e muore, mettiamo una notizia a una colonna sui giornali: incidente sul lavoro. Se un bandito viene ammazzato durante una rapina, dovrebbe essere la stessa cosa, morto sul lavoro. Sul lavoro. Quindi dov'è lo scandalo? Beh, devo dire che ha ragione, morto sul lavoro, lavoro, fai il rapinatore, vai con la pistola a fare una rapina, uno ti spara e muori, finito, chiuso è lì. È un effetto, è una cosa che mette in conto. Processo a quello che ha sparato, quelli che chiedono risarcimento. No, è qua un momento, no, vabbè, qua cosa c'entra? Cioè tu o sei per lo stato di diritto in generale oppure vabbè, no? Sì, sì. È ovvio che questo benzinaio finisca sotto processo. Cioè. Abbiamo con noi Francesco Caruso, buonasera. Molto bene. Buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene. Allora, Francesco Caruso, sai che fa il professore universitario? Sì, adesso, con Caruso. Polemiche pazzesche. Professore all'università Magna Grecia di sociologia dell'ambiente e del territorio, ma è stato parlamentare di Rifondazione Comunista e anche esponente del famoso movimento No Global. New Global. No, sulla no sua global. Biografia su Twitter c'è scritto: cospiratore, sovversivo e attentatore all'ordinamento economico mondiale e agli organi costituzionali dello Stato, addetta dalla Procura di Cosenza. Non lo scrive lui, ma lo dice la Procura di Cosenza. Magari lui si sente veramente cospiratore e sovversivo. No, poi fortunatamente abbiamo assolto in primo, in secondo e in terzo grado. Adesso stiamo aspettando il risarcimento, quando sarà effettuato. Poi potremmo anche cancellarlo da Twitter. Ah, d'accordo, dunque tu ti aspetti un risarcimento dopo sì. La soluzione, quanti soldi vuoi? Ma adesso lavori per gradi di giudizio, 22 giorni di carcere, 2 anni di obbligo. Ma quanti soldi hai chiesto? Sono 20, non ricordo bene, ha fatto l'avvocato, ma le assicuro non prendo una lira. Li darà in beneficenza, quello che esatto. Però quanti ha chiesto, no, per curiosità? 26.000 euro, mi sbaglio. Così poco, 26.000 euro e 20 giorni da carcere? Ma ti va? Sì, sono computati, c'è un tabellario. Pensavo che si chiama risarcimento in giusta detenzione. Vabbè, io vorrei capire una cosa da Caruso, è legittimo secondo te che la famiglia di questi Rom, quello che erano, che hanno sparato che hanno sparato e poi il benzinaio ha risposto, insomma, che facevano la rapina, chiede il risarcimento dei danni? Ma la vedo un po' difficile che ci sia un magistrato che possa accettare un'ipotesi del genere. Poi appunto non aspetterà certamente a me, non faccio un magistrato. Ma è legittimo che lo facciano? Ma se si apre, credo che non ci sarà nemmeno un'apertura di un procedimento penale, penso che verrà archiviato prima ancora dell'istradamento giudiziario, quindi non ci sarà neanche la legittimità giuridica. Ecco, ma perché secondo te questi Rom fanno le rapine? Io vorrei sapere il tuo... lo vorrei sapere anch'io, diciamo, perché fanno le rapine. Perché sono ladri o perché la società è cattiva o perché la società non gli dà lavoro? Qua parliamo di gruppi organizzati di un certo livello, con un certo budget, non sono i poveri disperati che stanno a fare l'elemosina davanti alla chiesa. Questi sono gruppi ben organizzati che fanno, diciamo, dal punto di vista professionale anche un po' paura di incrociarli per strada, e da questo punto di vista appunto, cioè, non sono avere i Rom poi il coraggio di incrociare e imbracciare il fucile e andargli incontro, diciamo, da questo punto di vista va tanto di cappello al benzinaio. Ma addirittura è un eroe anche per te, perché molti oggi dicono che è un eroe. La cosa dell'eroe mi sembra banale, sta di fatto che tante persone appunto davanti a questi scenari mettono la testa sotto la sabbia, aspettano che passano la tempesta, lui invece ha avuto almeno il coraggio di alzare la testa e andare ad affrontare, diciamo, questo scenario, diciamo, a dir poco drammatico. Ma secondo te, cioè, non sono questi che fanno queste rapine, non sono i Rom che vanno a rubare il rame, diciamo? No, diciamo, loro sono anche i bottini a cui loro aspirano, non sono i bottini da appunto dai 90 euro che riescono a farsi con il... sono rapine con milioni di euro in gioco, portavalori, gioiellerie, insomma, non è del resto nemmeno facile, diciamo, ci vuole una preparazione paramilitare. Poi appunto questi gruppi dell'est vengono molto spesso come, diciamo, curriculum professionale. Ma è legittimo rispondere con le armi secondo te? Ma il problema è che ci... Cioè, uno che risponde con le armi è una cosa legittima, cioè si va verso una... Molti dicono ci vuole una situazione come quella in America, in cui è legittimo prendere un'arma. Esatto, io quello avrei paura, diciamo, a instradarmi su quella via. Poi, appunto, se nulla togliere all'atto coraggioso che ha fatto il benzinaio, io mi permetto semplicemente di ricordare che non è che possiamo delegare ai benzinai la gestione dell'ordine pubblico. E il gioielliere diceva che ci vuole invece l'autodifesa, eccetera, eccetera. Il rischio che corriamo è quello, una degenerazione verso il modello statunitense. Il modello statunitense, noi parliamo di 31.000 morti ammazzati con le armi da fuoco, una percentuale di diffusione così ampia, ma anche un uso appunto spregiudicato e molto dilatato di questo concetto dell'autodifesa che arriva la settimana scorsa, non ricordo. Beh, però bene è interessante il fatto che tu dici tanto di cappello al benzinaio. Ormai è tutto degradato. It was a beautiful day, sun beat down, I had the radio on. Io voglio sapere da Francesco Caruso, ex parlamentare di Rifondazione Comunista e ex esponente No Global, se è giusto formare delle cooperative di Rom. Adesso lasciamo perdere le rapine a mano armata con i fucili in mano, nemmeno tu riesci a dare ragione a questi qua. Non penso, Francesco, che per te rappresenta una riappropriazione della ricchezza questa roba qui. No, non credo che si possa trovare qualcuno che arrivi a parlare di questo, evidente, diciamo. Però gli altri Rom, quelli che fanno le... No, i Rom, mi interessa però appunto è che non si arrivi in una società dove il vicino di casa ti spara perché il volume è troppo alto, cosa che succede. Ma questo che c'entra, ho capito. Negli Stati Uniti e ha rivendicato davanti al magistrato il diritto all'autotutela perché c'è la madre cardiopatica e doveva fermare, diciamo, questo attentato nei confronti della sua incolumità. Un Rom che ruba, no? Che ruba nella metropolitana, un Rom che ruba per strada, un Rom che ruba il rame, tu come lo consideri? Ah, il povero disperato che sta a mendicare in mezzo alla strada. Sì, quello che ruba anche, che ruba il portafoglio, che ruba il rame, che ruba, che fa piccoli furti, che sta alle stazioni. È un ladro, come lo dobbiamo considerare? No, un ladro, uno che ruba è un ladro. Sì, e bisogna... diciamo va incontro a delle conseguenze penali in una società. Ma perché commettono questi crimini? Ah, ecco, se vogliamo andare a discutere del problema di perché ci sia la criminalità nella società contemporanea, dobbiamo parlare di un altro genere di problema che non è la cronaca, i fatti di cronaca, ha ragione, non c'è nessuna ragione da dare a chi ruba. Questo, diciamo, lo so che forse No. Ma io voglio capire una cosa, c'è gente a Roma, per esempio, c'è un assessore che dice che bisogna fare delle cooperative per i Rom, perché i Rom hanno una particolare attitudine che è quella d'accordo, Caruso, del, sostanzialmente del trattare il rame, di raccogliere il ferro. Semplicemente sì, loro fanno un riciclaggio povero, lo fanno di per sé, lo fanno in modo informale, non legalizzato. E dunque è giusto fare queste cooperative? E potrebbe essere un meccanismo di accompagnamento al lavoro in cui semplicemente si tratta di far emergere dal sommerso un'economia informale. Ho capito, ma perché questa corsia preferenziale per i Rom? Cioè, di corsia preferenziale, se trovi, lo possono fare tranquillamente gli italiani. Dubito che gli italiani oggi si mettano a smontare un frigorifero per ricavare 80 centesimi quando è il valore del ferro che puoi ricavare da un frigorifero. Hai visto mai? Che ne sai? Hai visto mai? Lo possono fare i bianchi, i neri, i gialli, i Rom, cioè non è che c'è un razzismo. Però tu dici i Rom hanno più dimestichezza. No, non dico assolutamente questo, dico che è probabile che da parte loro, almeno l'esperienza che abbiamo che ho conosciuto a Reggio Calabria, loro lo fanno con impegno, pure che ricavano 5,50 € al giorno da questo lavoro, e loro piuttosto che appunto fare la fame, piuttosto che mandare il figlio in mezzo alla strada a prostituire, come purtroppo abbiamo visto. Ma secondo te non sono integrati? Cioè, il fatto che non sono integrati è colpa loro oppure la società che dovrebbe integrarli? Ci sono tre meccanismi tradizionalmente di integrazione dentro una società, diciamo, complessa come quella contemporanea. È un'integrazione formale, informale o criminale. No, però ho capito. Quello appunto, nel momento in cui c'è una disfunzione di una di queste, probabilmente si rafforza l'altro meccanismo. Qui da noi, in Italia, meccanismo, diciamo, di integrazioni formali, istituzionali, non esistono. In Svezia e in Norvegia sono molto più radicate. Senti, ma tu, no, ho capito perfettamente, Francesco, ma tu sei... Non c'è criminalità. Sì, ho capito, ma non perché c'è integrazione per altri motivi. Francesco, spiegami un attimo, ma tu semini ancora la canapa? No, mi dispiace, anche se ho visto che in Colorado hanno restituito 30 milioni di dollari delle tasse. Quello è positivo, oggi. Quello è positivo. Perché? Perché appunto sono tassati, invece di prendere in tascare i soldi la Camorra e l'Andrangheta, li intasca lo Stato e risparmiano anche. Ma quello sono d'accordo con te, hanno restituito un sacco di soldi, lo Stato ha fatto cassa con la canapa, ha fatto cassa così, ma tu fumi ancora? Tanto. No, purtroppo, diciamo, la pianto. Non solo non la produco, ma non la consumo più. E come mai? Ma perché? Perché sei diventato... La situazione si è fatta complicata dal punto di vista familiare, con una bambina piccola di 2 anni. E che vuol dire uno un po' fumare? Avere la possibilità... Ormai sei diventato borghese. Bravo, esattamente. A 40 anni abbiamo finito, diciamo, di pazziare. Di pazziare. Cioè sei passato, come hanno scritto i giornali, sei passato da disobbediente del sud, da rivoluzionario, eccetera, eccetera, ad assistente universitario. Cioè ti sei... Da sovversivo ad assistente universitario. A Barone, peccato che Barone, diciamo, intasca 370 euro al mese, lo stipendio che da precario della ricerca, dall'incarico appunto. Certo, è un po' strano che uno che ha definito assassini Treu e Biagi poi entri all'università. Qualcuno può suonare strana questa cosa, a me per esempio suona strana. Sì, no, peccato che io nell'università, diciamo, ci lavoro da 10 anni e c'è uscita la polemica, diciamo, è stata tutta strumentale e costruita strumentale, eccetera. Intorno ad un contratto di insegnamento di 370 euro al mese. Ho capito, però tu sei... sono diventato un barone, cioè, no, però, Francesco, a settembre devo rifare da capo a settembre, sperando, a proposito delle leggi, della legge 30, non la chiamiamo Biagi. Però scusami Francesco, il punto non è quanto guadagni, 370 euro eccetera eccetera, che pure sicuramente è poco, è il fatto che tu avevi un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di profilo eccetera eccetera, hai chiamato, ripeto, i signori Treu e Biagi assassini, te ne sei forse poi pentito eccetera, forte, e poi entri, e forse te ne sei pentito, non mi ricordo, e poi entri all'università dove insegnavano, insegnava Biagi, e dove ha insegnato fino all'altro giorno Treu. È un po' strano o no? No, io credo che nelle università insegnano anche, fortunatamente, coloro i quali portano avanti un pensiero critico. Beh, quello non è un pensiero critico, la precarietà, ma che era un pensiero critico, è che era un pensiero critico quello. Paradigmatico, teorico. Ma non sei legato dell'assassino, quello poi è morto, Biagi. Ma non ti sei pentito di aver detto quelle parole? Dopo 20 minuti, se vai a vedere l'ANSA, mi ricordo, delle 18:20, alle 18:40 già c'era la smentita, ma purtroppo, appunto, il meccanismo si era messo in moto e non si è mai più fermato. Come vedi, dopo 10 anni stiamo ancora a discutere di quello. Perché hai preso un contratto all'università, uno ti dice, allora hai detto quelle cose lì, e poi adesso poi sociologia non è uno di quegli insegnamenti farlocchi, l'università Magna Grecia, no? Un tempo c'era sociologia urbana e sociologia rurale. Dai su, ma che insegnamento è, Francesco? E li hanno accorpati, appunto proprio perché non ha più senso oggi parlare di sociologia urbana. Vabbè, ma è uno di quegli insegnamenti che solo in Italia possono esistere. Dai, mille università, mille materie. È una classe di insegnamento SPS 11 che è riconosciuto a livello internazionale, alla Cornell University o alla Madrid, alla Complutense, dove ho insegnato e lavorato anch'io. Va bene, Francesco, devo chiudere. Grazie, ciao, a presto, ciao. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Televisione, sono andata a scrivere per vedere voi due come siete, brutti, bruttini, sì, veramente. Allora, sviluppi nel caso Toscani, Parenzo. La giunta di un paese che si chiama Farra di Soligo, credo, Farra di Soligo. Sì, cos'è, provincia di Rovigo? Non mi ricordo, ha dichiarato Toscani persona non gradita nel territorio. No. Persona non gradita. Ma dai. E intanto sentiamo quello che dicono di Toscani a Radio Padania. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Parte la caccia a Roma. Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Pellegrin. Ripensamenti. Lo sterco, no? Comparare lo sterco di Viero Toscani, sterco di Viero Toscani. Io credo che forse lo sterco potrebbe avere, qualora trovasse rappresentanti in sede legale, potrebbe avere, diciamo, argomenti per rifarsi e sentirsi diffamato da questo accostamento. Lo sterco si potrebbe offendere ad essere accostato a Toscani. Io devo dire una cosa, lo sai che quando chiuderanno Radio Padania, io non me lo auguro, al contrario di quello che probabilmente ti auguri tu, Parenzo. No, sì, tu ti auguri la chiusura di Radio Padania. Io non me lo auguro. Quando chiuderanno Radio Padania, perché la chiuderanno prima o poi, come tutte le radio di partito, avremo mezz'ora di trasmissione in meno noi. No, a parte quello, ma io ingaggerò Pellegrin, io lo dico subito, tenterò di ingaggiare Pellegrin. Mamma. Sì, ogni giorno Pellegrin contro Parenzo, stupendo. Un quarto d'ora d'odio, stupendo, ogni giorno. Giorno. Ma che di odio. Pellegrin alla Zanzara Radio 24. Assunto, no, non esageriamo. Assunto addirittura? No. Senti a ancora. Tempo indeterminato, magari. Cioè, spiegami un attimo. No. Senti Pellegrin. Io sto qua a farmi il culo da 4 anni a prendere su. E tu adesso prenderesti questo Pellegrin. Senti qua, ma subito, se chiude Radio Padania, subito. No, assunto, no. Dai, ma il direttore è d'accordo, il direttore? Ma non credo che chi se ne frega, vai. Vedi una merda per strada e gli dici: Olivero Toscani, questa merda magari poverina. Dice: ma come Oliviero Toscani? Cosa ho fatto io? No, piano, stai calmo con le parole, ti dice la merda. A me Oliviero Toscani non lo dici. Adesso ti querelo, può darsi. Muro di onnipotenza. che ci ha reso schiavi. Ascoltatore, primo ascoltatore della Radio Padania che la tocca piano. Dice Toscani è una latrina umana. Ah, ho capito. Io spero che al signor Toscani i veneti gli facciano un mazzo tanto. È una latrina umana questo signore. Padania bella e libera. Buonasera, io chiamo dalla provincia di Treviso, magari anche veneta con puro sangue. Posso dirgli a Toscani che è una merda? Mi querela? Sì. No, signora, signora, signora, se può darsi che la merda quereli lei. Guardava. Un bel ambiente, eh? Di Roma fuori. Bel ambiente, proprio. Un bel ambiente. Niente stimolante, intellettualmente aperto. Stupendo. Pronto? La nonnina. A proposito dei Roma, stupende, sono stupende. Ho appena mangiato polenta taragna. Posso mandare a fare in culo Toscani e anche un Rom. Prego, prego. Allora, a proposito di Rom, un ascoltatore mi scrive una cosa meravigliosa. Propongo di fare una bella cooperativa di sminatori e mandarli a lavorare in Afghanistan. Beh, amici miei, mandiamo i Rom a fare gli sminatori in Afghanistan. Perché non fare una bella cooperativa, per esempio? Di sminamento in Afghanistan. Su sostiene l'ascoltatore. Non sostiene, sono bravi in questo. Sostiene l'ascoltatore. Ma io direi che io farei risentire Feltri, perché sulla vicenda vergognosa in cui la famiglia Rom dice che vuole fare causa allo Stato per risarcimento danni per la morte di quel rapinatore Rom in provincia di Vicenza, la parola definitiva l'ha messa Vittorio Feltri, dicendo beh, ma si tratta, poi con una freddezza, con una glacialità incredibile, dice Feltri, ma si tratta semplicemente di un incidente sul lavoro. Se uno va a, se uno come lavoro fa il rapinatore, pistola in mano, ci sta che ti sparano, ma in questo caso perfettamente ragione, nella sua glacialità, nella sua freddezza, senza emozione, quello che bisogna dire, vai a rapinare? Beh, ci sta che ti pigli una pistolettata. No processi, no processi. Io non faccio, non dico è un eroe, non me ne fotte nulla. Io non sto con nessuno, né col benzinaio, né con quello, non me ne frega niente. Però, lasciate stare i processi al benzinaio e non date nemmeno un euro di risarcimento. Se mai alla giustizia venisse in mente che il benzinaio è colpevole, dunque se quelli dovessero fare causa, non vi venisse in mente di dare un euro ai signori Roma, che peraltro a Vicenza si sa che non pagano nemmeno le bollette, pare. No, nei campi Rom, sono bollette non pagate nei campi Rom. E Parenzo vuole fare le cooperative? Perché no? Siccome non pagano le bollette, perché non facciamo una cooperativa? Una cooperativa per, che ne so, per riparare i danni, i danni degli incidenti, che ne so, i danni alle centraline elettriche. Facciamo una cooperativa. Facciamo una cooperativa. Ci sono prezzi agevolati per chi ad esempio vive nelle case popolari per quanto riguarda acqua, luce e gas. Le case popolari non devono esistere, innanzitutto. Ecco, bravo. Non devono esistere. Quelle migliaia di persone. Non devono esistere le case popolari. Che sono costrette. È un abominio. Le case popolari è un abominio. Preferisci che gli italiani vivano per strada, sotto i ponti? Preferisci un abominio, questo? Un abominio le case popolari. Ma quale abominio? Abominio come le hanno gestite le case popolari? Ma è inevitabile, il caso è inevitabile. Inevitabile un corno. Mercato, c'è gente che mercato. Ma gente che non ha soldi, mercato. Ma che roba è che un affitto costa 900 euro al mese? Fammi sentire Feltri, definitivo. Senza dubbi ne. Se uno di questi quattro banditi muore durante la rapina, muore per un incidente sul lavoro, chiaro? Se un carpentiere cade dal terzo piano, da un'impalcatura e muore, mettiamo una notizia a una colonna sui giornali, incidente sul lavoro. Se un bandito viene ammazzato durante una rapina, dovrebbe essere la stessa cosa, morto sul lavoro. Sul lavoro. Quindi dov'è lo scandalo? Diranno di accecarti, fai vedere le tue braccia possenti. A chi ti vuol fermare? And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Colpiremo ovunque, dice il governo giordano che intensifica i raid sulle truppe del califfato e i jihadisti annunciano ostaggio USA morta sotto le bombe. Vertice al Cremlino fra Putin, Merkel e Hollande per un piano di pace nell'est Ucraina. Sul terreno gli scontri continuano e gli USA accusano Mosca vuole la crisi. Renzi, abbiamo i numeri anche senza Forza Italia, ma spero prevalga il buon senso. Il nostro obiettivo è lavorare per il bene del paese. Otto esponenti di Scelta Civica aderiscono al Partito Democratico. Esperienza finita, dicono. È il PD il luogo dove continuare la battaglia per le riforme. Ultimatum di Bruxelles alla Grecia, 5 giorni per definire un piano che rispetti gli impegni presi. Mercoledì Eurogruppo straordinario sui nuovi aiuti finanziari. Mezza Italia sotto la neve, treni in ritardo a Bologna, blocco dei tir rimosso sulla 1 dopo una notte di code e proteste e nel bresciano tre anziani muoiono di infarto spalando. E 150 milioni di donne nel mondo mutilate, 3 milioni ogni anno a rischio infibulazione, la pratica bandita dall'ONU ma ancora in uso in molti paesi. Sondaggi di Libero, secondo voi chi è il più normale tra Cruciani e Parenzo? Hanno preso al balzo il nostro suggerimento di ieri, anzi il suggerimento che Parenzo aveva fatto, incazzato della presenza di uni, di alcuni ospiti qui, di alcuni argomenti, del fatto che io avevo detto alcune cose. Insomma, secondo voi chi è il più normale tra Cruciani e Parenzo? Beh, caro Parenzo, mi sembra che non ci siano dubbi tra i lettori di Libero. Beh, Cruciani, hai detto bene, tra i lettori di Libero quotidiano.it, Giuseppe Cruciani 72% considerato 72%. Normale, e Parenzo 28%. Ma io chiamo Casaleggio adesso, faccio fare una perizia su questi risultati che sono stati sicuramente alterati, sicuramente per mettermi in cattiva luce. Questo è lo scopo precipuo degli amici del cosiddetto quotidiano Libero, cosiddetto. Rodolfo da Roma, vai. Rodolfo, cosiddetto. Buonasera Cruciani, io volevo intervenire sul quello che ha detto il professore lì, il professore universitario, ex deputato di Rifondazione Comunista. Sì. Non sono d'accordo sul fatto che i rom, ci sono i poveracci che chiedono per strada elemosine, eccetera, eccetera, quelli che, poveri che vanno a rubare il rame, e poi ci stanno i delinquenti, quelli che vanno a fare le rapine. Yeah, sono tutti delinquenti, secondo sono me. Sono tutti delinquenti dalla nascita, perché ce l'hanno nel DNA questo loro. Cioè i rom, secondo lei, sono atavicamente, come direbbe Toscani? Atavicamente delinquenti dalla nascita. Delinquenti alla nascita perché viene tramandato da padre in figlio il fatto di delinquere, di fare quello che fanno nella società normale. Perché? Perché sanno di essere impuniti, perché nel nostro paese che cosa succede? Vengono presi, guarda quelli, anche i servizi che ha fatto Striscia, no? I portafogli, allora? Eccetera, eccetera. In galera non ci va nessuno, al paese loro li mettono dentro, buttano la chiave. Beh, quindi non c'è dubbio su questo. Dentro, dopo due giorni stanno fuori. Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma ha ragione Rodolfo, adesso al di là del DNA, al di là del DNA. Io come? No, dico al di là del DNA, vabbè, secondo lei ce l'hanno nel DNA, secondo lei ce l'hanno nel sangue. Di là, cioè, ti diciamo che ce l'hanno anche un po' nella tradizione, Parenzo, è nella tradizione. Sono dei delinquenti dalla nascita, nascono delinquenti. Poi anche sul fatto delle cooperative, no? Le cooperative gliele dà, ma i zingari le cooperative, ma c'hanno tanta gente nostra che ci avrebbe bisogno di lavorare. Infatti, dai zingari. I zingari devono andare, paese loro. Ma guardi che sono italiani spesso, sono italiani molti, sono italiani. Loro, e poi gli scontano la pena nelle carceri loro, perché lì li segano in due, li segano, qui invece vanno in ferie quando che vanno a bottega, vanno in ferie, certo che sono lì due giorni, sto a posto. Questo è il male dell'Italia. Grazie Rodolfo. Questo è il male dell'Italia, questo è il male dell'Italia, sentenzia Rodolfo. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Ennesima follia di Alan Morrissey, che annulla il concerto in Islanda. Basta con questi vegani, vegetariani estremisti, animalisti convinti che gli animali sono più importanti degli esseri umani. Ma che noia ti danno? Mi danno fastidio, mi dà fastidio l'estremismo di questo tipo. Allora, Alan Morrissey ha annullato il concerto in Islanda, aveva chiesto, come al solito, che fosse bandita la carne dal locale, poi si è accorto che evidentemente qualcuno portava la carne dentro, eccetera. Quel posto è pieno di cannibali assetati di sangue. Ma ti pare normale a te? Cannibali assetati di sangue, così li ha chiamati, cannibali assetati di sangue, cioè quelli che mangiano la carne, secondo questo bravissimo cantante, eccetera, sarebbero cannibali assetati di sangue. Vabbè. Altra follia invece viene pronunciata da un signore che ha tutto il nostro rispetto, per carità, Don Luigi Negri, signor Don Luigi Negri. Luigi Negri è la, il vescovo, arcivescovo, che cos'è? Vescovo? Sì, il vescovo di Ferrara. Vescovo di Ferrara, persona importante, un conservatore di tutto punto, il quale ha detto che la colpa della crisi economica è l'aborto. È l'aborto. Siccome l'aborto, secondo lui, provoca una diminuzione delle nascite, allora la crisi della colpa della crisi economica sarebbe dell'aborto. Bah. Io non ne posso più con questi rappresentanti della Chiesa, non ne posso più, te lo dico subito, non ne posso più. A proposito di quello che sta succedendo con tutta appello civica, alle truppe di Parenzo, votare sul sondaggio Libero, andate sul sito, sì. Votare Parenzo, grazie, appello, ultime forze per cortesia, ce la possiamo ancora fare, sconfiggere il nemico, votare. Allora, scusami. Librocotidiano.it è più normale Parenzo o Cruciani? Come si chiama? Librocotidiano.it è più normale Parenzo o Cruciani? Ovviamente sto vincendo di gran lunga io. Però. Vabbè, è normale che dico. È normale per Libero, in quel contesto lì, diciamo. Fabrizio da Roma, vai. Oh, buonasera ragazzi, troppo forte. Vai. Allora io ho un ragionamento da fare, credo che David sia d'accordo con me. Sì. David è David Gnomo, ma insomma. David è in inglese, vabbè. Insomma. David, no, è David Gnomo. David Beckham. David, in realtà. Però, grazie. Vabbè. David, perdonate l'errore. No, perché parecchio nessun... con gli inglesi, mi sta venendo l'inglese anche a me. Ma non è inglese allora. Però questo qua. Ah, tu dici ti viene di pronunciarlo in inglese, vabbè. Sì, mi viene di pronunciarlo. Allora, partendo dal fatto che su 10 famiglie, 7 che vivono in una famiglia tradizionale rimangono eterosessuali, gli altri 2 omosessuali. Io credo che sia in atto un piano da parte degli omosessuali, sì. Siccome non si possono riprodurre ovviamente, sì. Adottando un bambino e vivendo con loro, io non ho nulla in contrario, no. Vivendo con loro, diciamo su 10 famiglie omosessuali, almeno 7/8 di questi ragazzi che cresceranno in queste famiglie cresceranno anche loro omosessuali, e credo che questo sia il loro unico modo per riprodursi. No, ma non ho capito bene. Allora, qual è il punto fondamentale? Lei è contro le adozioni gay, mi sembra, no? No, assolutamente, visto che l'altro ieri. No. Vabbè, allora, non ho capito. Allora? Allora, visto che l'altro ieri è anche uscito un film Non c'è due senza te, che tratta proprio di questo, della coppia omosessuale, sicuramente sei a conoscenza. Visto che in una famiglia tradizionale di uomo e donna, su 10, 7/8 ragazzi rimangono eterosessuali, gli altri 2 potrebbero prendere. Vabbè. E allora, adottando un bambino in una coppia omosessuale, vivendo un bambino in una coppia omosessuale, 7/8/10 diventeranno omosessuali. È l'unico loro modo per riprodursi, altrimenti... Ma perché le è venuto in mente questo? Perché le è venuto in mente questo calcolo bestiale? Non c'è un piano gay, non c'è un piano omosessuale per far diventare tutti omosessuali, anche perché se il mondo fosse fatto di omosessuali sarebbe una noia mortale anche per gli omosessuali stessi, immagino, no, Fabrizio? Allora termina one moment. Non ho capito. Che succede? La che sei in taxi? Non ho capito. Sì, sono la concorrenza di David. Cioè quale concorrenza, scusa? L'NCC. Ah, l'NCC, sei l'NCC. Ma tu stai dicendo one moment, cioè stai dicendo a qualcuno aspetta un attimo, devo finire di parlare con la zanzara, è un cliente. Bravo. No, Fabrizio, dai, prendi sto cliente, NCC, magari sei pure abusivo, no? No. Ma quale abusivo? E che ne so io? Deficiente, bravo, deficiente. Ma deficiente. Giuseppe, io ti stimo tantissimo. KLM, sì, siamo arrivati, siamo all'aeroporto, Giuseppe. Ah, sei all'aeroporto? Va bene, Fabrizio, ma non è che era una domanda, mica era una cosa, magari sei anche abusivo. Scusami, era una domanda. No, ma tu fai bene, se mi volevi dare del deficiente, fai bene. No, va bene, ho capito, ma tu anche tu non sopporti Uber? Anche tu non sopporti Uber? No, per me tutti dobbiamo lavorare. Perché non vai a lavorare con bisogna essere nella legge, però perché non vai a lavorare con Uber anche tu? Molti dei tuoi vanno a lavorare con Uber? Perché il primo lavoro che ho trovato è stato questo, caro Giuseppe. Se avessi trovato prima Uber, sarei andato con Uber, sicuramente. Ma perché i tassisti ce l'hanno tanto con Uber? Perché toglie il lavoro, secondo te? Sì, oddio, parecchi tassisti romani sono parecchi ignoranti. A can è trolley, a give you trolley. Come a give you trolley? Beh, sai sai anche l'inglese, Sì, un po', diciamo che passaci un attimo questo qui. No, e che parecchi no, però, passaci il cliente. Comunque molti sono ignoranti. Passacelo un attimo. Sì, ma molti no, Molti tassisti romani sono ignoranti, proclama questo NCC Fabrizio da Roma, che fra poco se lo pigliano i tassisti e fanno un mazzo così. Ma che me fanno? Ma me lo sgrullano, come si dice a Roma. Come dice Fabrizio, tu hai detto che molti tassisti sono ignoranti e non capiscono. Molti sì e molti no. Molti sono se molti sì o molti no è un po' in contraddizione, molti, comunque vabbè. Ci stanno anche, vabbè, alcuni sì, alcuni no, va bene così. Ma di che nazionalità, è questo qua che ha imbarcato nel tuo NCC? Questo signore, quale? Questo signore che sto portando? Che è inglese, è americano? Dello Zambia. No, dello Zambia. Zambia e lavora presso la FAO. È un tuo cliente? È un tuo cliente? È un mio cliente. Quanto gli fai pagare? 50 euro, 45, dai. Bravo, David. 45 euro. Lo so perché anch'io spesso uso invece di 40 enjoy invece your fly, di 50 in genere no, sì. 45 euro perché sì, la partenza conosco. 45 l'arrivo costa un po' di più perché paghiamo il parcheggio Vabbè 45 no, col taxi normale quanto costa? Tra l'altro in questo momento 50. Il taxi normale costa 48 ormai dipende da dove parti. Dove sarei partito io è la stessa corsa ma fate pagare di meno no ma se no non c'è la concorrenza fate pagare 30 euro 30 euro che passa la paura dai su a Giuseppe ma scusa un attimo io te sto a far pagare 3 euro di meno del tassi ma 3 euro che è 3 euro ma 3 euro ma che vuoi ma 3 euro non c'è non è niente 3 euro dai su ma uno a quel punto piglia il tassi e chi se ne frega no sì paghi 48, con me paghi 45, però mi chiami a me perché vuoi la Mercedes blu con l'autista in giacca e cravatta. E dov'è il problema? No, vabbè, sì, paghi cioè, un servizio. Io ce l'ho con i tassi, ripetiamo. Ma tu che macchina hai, scusa? Che macchina hai? La Mercedes bella, lucida, pulita, stupenda. Beh, sti giorni è molto sporca perché a Roma piove parecchio. Tra l'altro sti giorni c'è molta agitazione a Roma tra taxi e NCC, devo dire che parecchi hanno ragione purtroppo perché chi lavora con la licenza di fuori Roma ecco per quel motivo hanno ragione, parecchi no, però alla fine dobbiamo lavorare tutti, caro Giuseppe. Va bene Fabrizio, ti abbraccio, ciao, sei un grande, ciao. Ciao. Fabio, Napoli. Fabio. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Ciao, niente, io volevo intervenire sul fatto di questi nomi, per un'esperienza personale, di come vi posso voler bene io a questi signori qua. Che per parcheggiare un camion davanti alla loro roulotte di un parcheggio pubblico sì. Questo qua ha pensato bene a svuotarmelo prima e poi dargli fuoco e me l'ha bruciato proprio. Ma tu fai camionista, Fabio? Sì, faccio il camionista. Allora volevo capire questa mentalità che hanno. Si è fatto tre mesi di galera perché sfiga ha voluto che uno l'ha visto dal balcone e ha chiamato la strada. Però intanto poi dopo è stato subito messo fuori. Soldi non ne puoi prendere perché loro solo se sono alle strette ti danno dei soldi, altrimenti non riesci o non riuscirai mai. Vabbè, tu mai hai parcheggiato il camion davanti a. Perché hai parcheggiato davanti? Ma perché hai parcheggiato davanti a un campo Rom? Pure te lo sai che c'è un campo Rom là davanti? No, non era un campo. E che cos'era? La ruota di questo qua non c'era proprio quando io ho parcheggiato. Questo qua è venuto dopo e si è messo lì. Vabbè, ma perché ci vuoi raccontare questa roba qua? Perché secondo te sono tutti ladri anche per te? Ma il termine lavoro nel loro vocabolario non esiste proprio. Allora, però lavorare non ce l'hanno. Ma Renzo, queste sono le testimonianze reali. No, non sono. L'ho fatto finire perché il altrimenti paese si reale. Le voci, si accavallano le voci. Il paese reale. Ma quale paese? Il paese reale che ti racconta le testimonianze. È la pancia razzista che tiri fuori. Ha detto che sei un razzista, Fabio. Ma c'è un. Non lui in sé. No, Fabio, sei lui come pancia Fabio, razzista. Non Fabio. Fabio da Napoli. Non è Fabio. Ma essere razzista quando uno ha un'esperienza personale che gli hanno bruciato un cambio. Qua non è essere razzista. Qua è scusami, anche Fabio da Napoli, io li odierei a priori, ma io non li odio a priori, io mi stanno sul cazzo per quello che mi hanno fatto, mi spiego. Ho capito Fabio, grazie. No, ho capito. Ragazzi, non ci possiamo dimenticare quello che ha detto Cristiano Malgioglio l'altro giorno, cioè la lingua in bocca, Belen che gli mette la lingua in bocca e lui che vomita per una settimana. Avevamo fatto uno sketch per quelli che il tasso, mi ricordo, lei era uscita dall'isola e a un certo punto poi c'è stata questa scena di io avevo chiuso la bocca, lei invece mi ha aperto la bocca, mi ha dato una slinguata e io purtroppo sono stato male per una settimana. Pronto? Sì, Carlino? Sì, Salve, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, la disturbo? No, non disturbo, mi dica. Non so se ha letto quello che ha scritto scherzosamente Belen Rodriguez sul suo profilo Facebook. Che ha scritto, mi dica. Allora, lei conosce Belen Rodriguez, no? Non la conosce tutta l'Italia, penso. Chi, no? Chi non la conosce? Allora, la conosco sul giornale, però chiaramente. No, certo, le faccio una premessa. Allora, Cristiano Malgioglio, qualche giorno fa, che è quell'altro curioso signore con un ciuffo bianco, diciamo. Conosce anche Malgioglio, immagino, no? Penso di sì. Come persona di spettacolo. Sicuramente no. Assolutamente. Ha detto che una volta la Rodriguez gli ha dato un bacio e che lui, siccome insomma a lui non piacciono le donne, ha vomitato per una settimana. La Rodriguez ha risposto in questo modo, per questo la chiamo. Questa mattina riflettevo e sono arrivata alla conclusione che piuttosto che mettere la lingua in bocca a Malgioglio, mi limono con Roberto Carlino. Allora, le cose sono due. Le cose sono due. Io penso che sia una cosa, nei suoi confronti, un po' di cattivo gusto, no? No, io, purché se ne parli, va bene. No. Ma lei è a disposizione, volendo. Però. No, guardi, non è, questo non è possibile per due motivi. Uno perché non la conosco, l'altro motivo perché sono sposato, e c'è anche un terzo. E qual è il terzo? Il terzo motivo che secondo me, giustamente, come ha detto la Rodriguez, sarei una cosa di scarto, dopo l'ho masticato lei. Vabbè, ho capito. Ho capito, però è una cosa brutta, per dire proprio. Ma non mi interessa che sia brutta. Io ho detto, ma si rende conto? Parlatene male, perché ne parlate? Ma come si permette di dire che è come quasi fosse l'ultimo scalino del genere umano? Ma sono l'ultimo scalino. Cioè, la considera di una brutta. Mobile Dream. Mobile Dream è come azienda. È un'azienda. Non sono certo. Cioè, lei si considera brutto, non mi dica Carlino. No, io mi sono mai considerato, non è bello né brutto, mi considero un tipo come lei. Io penso anche lei si considera un tipo, no? Beh, adesso. Non credo che lei si considera bello. Ma no, credo. Bello no, però insomma. Ma infatti è un cesso, Puccioni, bravo, ha ragione. C'ha il suo fascino, c'ha le sue cose. Io purtroppo, ormai ho 60 anni, guardo le cose con un altro. Vabbè, ma 60 anni mica la vita è finita, cioè. No, assolutamente. Lei no, sa che ci sono 60 anni che vanno con donne molto più giovani. Non è il suo caso, per carità. No, assolutamente no. Essere considerato dalla signora Belen Rodriguez, che è, come dire, il miraggio di tutti gli italiani, no? Quasi uno scarto, cioè proprio peggio di lei c'è solo Malgioglio, questo ha detto. Bellissimo, questa cosa è bellissima. Ma come bellissimo? Potrebbe farci una campagna pubblicitaria con questa roba, Carlino. Guardi, la prendo in seria considerazione. Guardi, le do un suggerimento. Prenda questa frase della Rodriguez, va su Google, fa Rodriguez Carlino. Esce fuori questa roba. Vabbè, quando avrà tempo. C'è già da fare. Tra un mobile e l'altra, tra una casa e l'altra. Tra una casa e l'altra. No, tra una casa e l'altra, tra un palazzo e l'altro. Tra un palazzo, non case, per carità. Palazzo. No, per carità. Tra una casa va benissimo. La cosa più bella del mondo sono le case. I mattoni non sono solo la realtà. Poi si ricordi una cosa. Mi dica. E in questo momento che stai di partenza nel mercato immobiliare, anche lei si dovrà comprare una casa. No, io perché non voglio più comprare case, Carlino. Io non, odio la proprietà. Tutto in affitto. Tutto in affitto voglio. Male. Voglio una vita in affitto. Vabbè, lei dice sbaglia perché gli conviene. Che c'entra? No, perché mi conviene. Cioè, provi a ragionare un attimo. Oggi lei quei soldi che ce fa? I mutui mai sono stati mai così bassi? No, ma adesso. Oggi se lei va su casa. Il numero uno, sto Carlino. Te sta a piazzare a casa. Stiamo a parlare di Belen e lui ti piazza a casa, Carlino. È il numero uno, assolutamente. Però, senta, no, ma perché non fa uno spot con la signora Belen dentro una di e senza dire una parola? Voglio Mobile Dream, solide realtà, con la solide limonate. Esatto. No, ma posso dire una cosa, la signora Belen costerebbe troppo come attrice. Prenderla costa troppo. Meglio non me la posso permettere come attrice, no? Perché chiaramente c'è un cachet molto alto. Ma dopo quello che ha detto dovrebbe farlo gratis, scusi. Dopo quello che ha detto. Guardi, la Belen, si ricordi sempre una cosa, Belen Rodriguez, da qualsiasi altro personaggio pubblico. Bisogna prendere le cose in modo razionale, soprattutto con molta filosofia. E quindi qualunque cosa dice va bene, mai criticare. Mai accettare sempre, perché secondo me. Però io sono sicuro che lei, se sua moglie non lo sapesse, una limonata con la Rodriguez se la farebbe. Dai. Ma io invece preferisco prendere la casa a lei, guardi insomma. Io però, Carlino, mi scusi, io come voglio vivere una vita in affitto. Carlino, come l'ho? Una vita in affitto. Io voglio una vita in affitto, mi voglio liberare. Io invece le voglio dare un sogno e una solida realtà. No. Una bella casa in una bella zona che piace ma a lei. No, ma io perché per io l'affitto? Ma l'affitto la casa. L'affitto. Ecco perché dice questo. No. Quando si sposerà nuovamente, vedrai che la nuova compagna lo convincerà a comprare casa. Io ti ricordi che sono sono sempre a sua disposizione. Noi l'abbiamo chiamato. Io voglio cosa, una vita, però, scusi, Carlino, voglio una vita in affitto. Voglio liberarmi di tutte le proprietà. Io la voglio far diventare un uomo felice. E guardi che oggi siamo ai prezzi dei minimi storici. Ma quindi oggi più che mai conviene comprare casa. Senta una cosa, però, è curiosa una cosa da sapere da Carlino. Ma Renzi è considerato uno dei più grandi venditori, no? Dal punto di vista della, dello stile, sì, eccetera. È più bravo lei o Renzi? Sicuramente Renzi, ma non come venditore, come politico. Vabbè, anche come venditore però no. No, no, non credo, non credo. Io penso che siamo, ma guardi, come uomo di marketing alla politica, anche guardi, questo come secondo sa, me, no? Secondo me lui è veramente un uomo preparato, perché la mossa che ha fatto per tirare fuori Mattarella e mettere il partito tutto quanto coeso intorno a questo progetto è stata la dimostrazione che è veramente un bravo politico. Cioè lei è diventato renziano? Non sono diventato renziano, io sono diventato attento. Cioè le piace Renzi? Le piace Renzi? No, le dico di più, io sono andato a votare, io abito vicino nei Parioli. Sì. Non è, a Piazza Guidi c'era un banchetto quando c'era da votare alle primarie. Sì, non sì, come, sì. Come, e ho votato per Renzi. Ha votato Renzi. Pur essendo un uomo di DC andai a votare perché credevo fosse giusto che quella volta, che adesso ho capito, la seconda volta, avesse una possibilità. Io mi auguro che Renzi non sia... Ma questa è la dimostrazione, il fatto che lei, uomo di centro, DC, si è presentato attenzione, una volta alle elezioni, no, con l'UDC, ti faccia il tifo per Renzi, abbia votato da Renzi alle primarie, è una dimostrazione che Renzi ha conquistato molto elettorato di centro. Lanciamo un ultimo messaggio a Belen Rodriguez. Forse sono brutto, ma... No, innanzitutto non sono brutto, io sono un tifo, ma sicuramente amo mia moglie, per cui ringrazio per avermi nominato... E anche in senso, qualsiasi modo. Ma la lingua, vabbè, in bocca, la lingua in bocca non te la metto. No, no, no, non è che la lingua in bocca. Non la no, non ti bacio, ho mia moglie. Ma no, ma io non la, non è che non la bacio. Lei non ha mai tradito, non ha mai tradito sua moglie, Carlino. Ma sai, io dico sempre che questi sono segreti personali, ma io le potrei dire sì, le potrei dire no. Qual è la verità? Ah, beh, certo, quando uno dice così sicuramente qualche marachella l'ha fatta, Marachella, ma quando mai? Marachella non si fa. Come non si fa? E soprattutto si ricordi una cosa molto importante. Lei purtroppo mi ha detto che non è più sposato. Io mi auguro si sposi presto un'altra volta. Lei e compra, ma perché? E se compra la casa? Ma per carità, il primo dia è quello. No, il però scusa, grande lottatore della storia. Carlino, ma si parla anche di matrimonio omosessuale. Cioè, negli ultimi la vedrebbe lei? No, no, attenzione, io sono d'accordo. Io penso che sia giusto. Cioè, no, ma lei la casa la venderebbe a due omosessuali? E certo, ma ci mancherebbe altro. Soprattutto due omosessuali. Ma guarda, secondo me vanno rispettato tantissimo. Faccia una bella pubblicità con due omosessuali, sì, che vendono, che cercano casa. Siamo non è una cattiva idea, ci penso. Ci potrebbe essere per tutti. No, dico, farò una pubblicità gay friendly a favore dei gay. Questo non ho detto che lo faccio, è una cosa a cui penso perché è una cosa intelligente. Vabbè, ci sto pensando. Una cosa intelligente. Vabbè, ma io mica sono stupido. Faccio finta di essere. Non mi permetterei mai. Anche perché oltre che lei è molto intelligente. Vabbè, adesso. Come dice il suo amico, lei se l'ha accattata a casa. Va bene, Carlino, grazie, a presto. Saluti. Roberto Carlino non bacerebbe, io non ci credo, non bacerebbe con la lingua Belen Rodriguez. Luca da Rovigo, devo dire che la cosa della Rodriguez è stata veramente tremenda. Lui l'ha presa bene perché è un grande venditore, non si vuole inimicare Belen Rodriguez, però sì, una che ti dice pur di non baciare Malgioglio bacerei Roberto Carlino, sia proprio che ti considera una merda, uno brutto, orrendo. Luca Rovigo, vai. Buonasera, a parte che la Belen se viene qua non mi scappa, comunque a parte questo. Ma, beh, oddio, insomma, non esageriamo, non mi scappa adesso, non è. Cioè, quella... No, la lingua in bocca ce la metto e non vomito, certo, per una settimana. Vabbè, quello è Malgioglio, ma se ha vomitato, punto. A parte questo, volevo solamente dire che il benzinaio ha fatto benissimo a sparare, perché non se ne può più di questi zingari da tutte le nostre parti, provincia di Rovigo, provincia di Padova. Ma cosa vuol dire ha fatto benissimo a sparare? Ma adesso cosa sono i tifosi, gli ultras? Doveva sparare, non doveva. Ha sparato, benissimo, ha sparato perché si è trovato in quella condizione lì. Serve adesso avere gli ultras del benzinaio? Serve? Non è che serve che ultras. Luca da Rovigo chiami per dire giustissimo, sparare ai zingari, certo, giusto? No, sparare agli zingari, serve. Luca, non ho capito. Non ho detto sparare ai zingari, ma io ho capito, ha fatto benissimo a difendersi e a prendere le difese di queste persone che sono continuamente vessate da queste bande di rom, zingari, quello che sono, che non se ne può più, perché ogni giorno fanno saltare un banco, ma cioè, qua di campi zingari, questi basta andare qui attorno a noi, sono pieni, e poi vai là, trovi macchine, Porsche, Mercedes, che cazzo fanno questi tutto il giorno? Per cui non ho capito, tu come li consideri gli zingari, i rom? Come ha detto l'ascoltatore di prima, cioè ladri nel DNA, ladri dentro? Ce l'hanno dentro questi ti inculano solamente guardandoti, in più fanno anche queste puttanate qua. Però scusa Parenzo, se è talmente radicata questa cosa nell'opinione pubblica che i rom sono ladri, sono ladri proprio come cultura, sì, come tradizione. Eliminateli tutti, certo. Eliminateli. Ma ha mai visto un rom lavorare? Per cui che bisogna fare con gli zingari, con i rom secondo lei? Gli italiani o no che siano? Allora, che bisogna fare? Al di là di quello che bisogna fare, secondo lei che cosa farebbe? Li spazzerebbe tutti via, li manderebbe tutti via dall'Italia? Che cosa farebbe? Oddio, quando c'è una certezza della pena, questi qua sicuramente non verrebbero qua e non sosterrebbero qua le nostre spalle. Fermi tutti. Attento al DDT, sai. Ce la faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Sì, che succede nella politica? Succede che un po' di senatori di sciolta civica, lo stavo dicendo prima, poi mi ha interrotto Parenzo come al solito, e un po' di senatori di sciolta civica vanno con il Partito Democratico. Giustamente credo un quotidiano stamattina ha titolato "Sono gli scilipoti o i razzi, insomma fate voi", di Renzi, ed è esattamente la stessa cosa. Certo, non sono come Scilipoti e Razzi dei personaggi un po' particolari, folcloristici, eccetera eccetera, poi sapete tutto il rapporto personale che ho con Razzi, assolutamente no, sono diversi, sono magari dei professori, sono persone distinte, sono persone che parlano a modo, sono persone che hanno studiato, sono persone che non vengono dal mondo operaio come Razzi, non hanno salvato Berlusconi nel 2010 dalla caduta del suo governo, però fanno la stessa identica operazione politica, forse anche peggio, perché se magari quella roba lì poteva essere motivata dal fatto di restare in Parlamento, se è così, perché poi in alcuni casi magari ci sono anche dei convincimenti personali, rapporti che si sono guastati con Di Pietro nel caso di Razzi. Beh, in questo caso c'è anche la cosa, c'è anche, come dire, la cosa di dire: beh, noi abbiamo sempre pensato certe cose, una prosecuzione naturale della nostra esperienza politica. Invece è la stessa identica cosa. Cioè, questi signori, dal ministro Giannini fino a Benedetto della Vedova, eccetera, eccetera, sono persone che si sono presentate alle elezioni del 2013 contro il Partito Democratico, sono al governo col Partito Democratico e adesso passano baracca e burattini con il Partito, cioè con il più forte, in sostanza. Anzi, l'amico Benedetto della Vedova, possiamo dire che ha cambiato 5 partiti? 5 partiti in 2-3 anni? Non 5 ha cambiato partiti. Niente, è rimasto coerente con se stesso. Vabbè, lui sarà anche rimasto, quello lo dicono tutti che sono rimasti coerenti con se stesso. No, ma se vedi il percorso. Della Vedova, che cosa ha fatto? Era radicale, Forza Italia. Radicale, sì. Forza Italia. Era sempre stata la parte dei radicali sì, più vicina, certo, a Forza Italia. Comunque, più libertaria, radicali, più liberale soprattutto. Io non sto dicendo che è un criminale, sto dicendo sono i fatti, sono queste cose qua. Radicale, coerenza, però. Forza Italia, Futura e Libertà Confini. Appunto. Futura e Libertà Confini, Monti. Appunto. E adesso Partito Democratico. Una cosa pazzesca. Sempre, dai, in continuità con la tradizione cinque liberale. Cinque partiti. Alberto da Milano. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Mi piacciono le scommesse. Scommettiamo che questo lì, la famiglia del Rom, scommettiamo che verrà risarcita in questo paese? Facciamo una scommessa tra di noi. Alberto, non verrà risarcito. Non verrà risarcito, stia tranquillo. In Italia verrà risarcito, vedrete. Comunque, io la soluzione l'avevo già detto una volta per questi Rom, la ripeto un'altra volta, l'unica soluzione possibile sono le ruspe. non ci sono altre soluzioni. I campi abusivi si va là il giorno prima, l'ho già detto, gli si avvisa, questi signori preparano i loro bagagli e se ne vanno con le buone. Se non voglio andare con le buone, si arriva con le ruspe il giorno dopo e si butta giù tutto. Sono abusivi, non devono stare qua, vadano in un altro paese che non si ritaglia. Alcuni campi sono attrezzati. È tutto qua il problema. Ci vogliono invece di spendere soldi per gli F-35, che li spendessero per comprarsi delle ruspe. Cioè, scusi un attimo, Alberto, lei caccerebbe fuori dall'Italia anche la famiglia del rapinatore morto? Ci mancherebbe, certo. Sì, ma se certo. Sono italiani, come fai a mandarli fuori dall'Italia? Ma chi se ne frega se sono italiani? Vabbè, ho capito, ci vuole qualche motivo per mandarli fuori dall'Italia. Cioè, lei dice, chi non ha fissa dimora va buttato fuori dall'Italia. Allora, già il motivo che questi qua vengono a chiedere un risarcimento è già un motivo per andare fuori dai coglioni. Questo è già un motivo. Cioè, uno che con la, se io domani prendo la pistola e dico, vado a rapinare l'S lunga, ma è normale, mi posso aspettare o no che una guardia mi spari dietro? Ma quello non c'è dubbio, chi infatti dice nulla, ma quello è la mia, esatto, la mia famiglia non deve andare dalle seconde di ma voi avete sparato contro, ma è una cosa logica secondo voi? No, ma certo che non è una cosa logica, a me lo dice, esatto. Per cui già il fatto che questi qua chiedano un risarcimento per me dovrebbero già andare fuori dai coglioni, solo per quello. Se la legge gli consente comunque di chiedere il risarcimento, poi ovviamente non lo avranno. E vale sia perché se essi sono Rom, vale sia per i Rom, sia per Bubù. Cioè, se la legge è uguale per tutti, vale anche per loro. Ma quale comunista? Ma quale comunista? Ma di che cosa parla? Il comunista che va a Dubai, champagne, la smetta, ma la smetta. Me la pianti di fare il buonista, Parenzo, su. Ma cazzo, ma no, guardi che non sono buonista manco per niente. Ma guardi in faccia la realtà, guardi in faccia la realtà. Questi stanno chiedendo un risarcimento per uno che ha... Io mica sono a favore del risarcimento, ho detto semplicemente che se la legge glielo consente ci sarà un giudice che mi auguro valuterà le cose e non glielo riconoscerà. Dopodiché sia esso un Rom, sia esso un Bubù, sia esso un Bergamasco o uno di Catania, se è il suo diritto tentare di chiedere il risarcimento lo fa. La legge è uguale per tutti, non è perché siccome è Rom non può chiedere un risarcimento, poi non glielo daranno ovviamente, ma che discorso è? Io ve l'ho detto, facciamo una scommessa, vedrete che in Italia il risarcimento di questa famiglia lo otterrà. Io magari faccio una scommessa, magari mi gioco quello che volete. In un altro paese chiaramente questi qua non avrebbero neanche il diritto di dire in Italia questi otterranno un risarcimento. Mi gioco quello che volete. Speriamo di no. Allora devo fare una rettifica perché oggi Benedetto Della Vedova che è il sottosegretario agli esteri di Scelta Civica, pur considerando chiusa l'esperienza in Scelta Civica, come dirà il congresso di Scelta Civica che ci sarà tra qualche giorno, ha rifiutato l'adesione al Partito Democratico, ha rifiutato l'adesione al gruppo del Partito Democratico. Dunque in realtà i 5 passaggi non sono 5 ma sono 4, poi vedremo quello che succederà. Comunque la correzione è questa, perché qualche ora fa con un comunicato ufficiale sul suo profilo Facebook Della Vedova ha detto: io non ho aderito alla proposta fatta da Renzi e agli altri senatori di Scelta Civica di aderire a Scelta Civica. È una precisazione che assolutamente bisognava fare. Franco da Roma, perché tra questi senatori ci sono alcuni che sono passati con il Partito Democratico. Della Vedova invece ha deciso per il momento di non aderire al gruppo del Partito Democratico. Franco da Roma. Sì, salve, buonasera. Stavo sentendo poc'anzi parlarvi di questa rapina commessa ai danni di un gioielliere e sentivo dire ladri, persone che hanno rubato. Innanzitutto non sono persone che hanno rubato, questi sono dei criminali che hanno commesso una rapina a mano armata. Certo. Volevo ricordare a Parenzo. Ma io sono d'accordo con lei, Cioè non ho dubbi che lei è d'accordo con me, però le volevo ricordare, signor Parenzo, che l'articolo 53 del codice penale prevede, nel caso di omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona, l'uso legittimo delle armi solo per respingere la violenza o far sì che questa non venga portata. Ma questo per dirmi che cosa? Io non ho detto nulla in contrasto con questa roba qui. Signor Parenzo, che lei è sempre pronto a spezzare una lancia. No, non ho spezzato nessuna lancia. Non ho spezzato nessuna lancia. E la richiesta di risarcimento danni da parte di queste persone, oltre ad essere pretestuosa, è anche inopportuna e, se vogliamo, vogliamo, anche vergognosa. Sicuramente, perché... come qualsiasi persona che verrà sottoposta a giudizio, ha i diritti di tutti gli altri non detenuti, perché ancora questi non sono detenuti, ma tutti gli altri che vengono messi sotto processo. Questo le sto dicendo. La domanda è solo questo. Oppure vogliamo fare delle leggi per cui se il reato, se ci sono gli avvocati d'ufficio, come lei sa, se non si possono permettere di pagarsi. Ma vale anche per gli italiani e vale per chiunque questo, a parte che non sappiamo se sono italiani. Ma queste persone sappiamo che non pagano le tasse, non e allora sono non processiamo, e allora mandiamoli alla forca direttamente. Mi scusi, e allora facciamo due parole, no, che a me non è che mi capita ogni giorno di intervenire e parlare. Io volevo solo dire che queste persone, mi scusi signor Parenzo, beneficeranno sicuramente di qualche forma gratuita di gratuito patrocinio o qualche assistenza legale gratuita li assisterà. È giusto questo? Ecco, il gratuito patrocinio c'è da noi, gratuito patrocinio c'è per tutti, soldi come facciamo noi italiani. La richiesta dei danni non la farebbero. Ma mi spiega, allora vada fino in fondo, mi spieghi l'alternativa. Allora, o facciamo una norma per cui se a commettere un delitto è un immigrato, questo non ha il diritto alla difesa. La cosa fondamentale, ma io sono d'accordo con te, tutti hanno diritto alla difesa, anche i rom che rapinano. Si può decidere, potete decidere che nella Repubblica Padana di Varin e Bulin, lì come si chiama, e quell'altro, nella Repubblica Padana di Radio Padania, se uno è immigrato non ha il diritto alla difesa, potete fare una norma di questo tipo, proponetela. Io non voglio esprimere nessuna discriminazione nei confronti di queste persone che rispetto, dico solo che persone come lei, mi scusi, io la rispetto molto, possano anche dire che una richiesta di questo tipo, oltre a essere legittima perché il nostro diritto lo prevede, è anche pretestuosa, ma sicuramente, e vergognosa, ma sicuramente detto, come qualunque sicuramente come possiamo dire di qualunque criminale che prova a difendersi in tutti i modi procrastinando il processo, signor Parenzo, qui ci stiamo parlando di criminali che utilizzano ma qualunque criminale che viene sottoposto a giudizio, se ha un bravo avvocato, anche se non ha un bravo avvocato, qual è il suo obiettivo? Quello di prendere il meno possibile, credo, o dico una sciocchezza. Cioè, se uno viene sottoposto e quindi anche loro hanno il diritto di difendersi, appunto, esattamente. Però la richiesta di risarcimento danni nei confronti del benzinaio che ha sparato per difendere la sua vita e difendere la vita della persona che stava all'interno del negozio è offensivo e vergognoso. Questo diciamolo, signor Parenzo. Ma infatti il punto è questo. Ma chi dice il contrario? Dicendo che siccome sono rumeni, siccome sono zingari, noi ce l'abbiamo con loro. Non è così. Chi lo dice questo? Certo che dalle telefonate di qualcuno, specie a Radio Padania. Ma lo sai la cosa curiosa? Qual è? È che questi signori, la famiglia di questo qua che ha rapinato, che è rimasto ucciso, ovviamente devono dare l'indirizzo quando fanno la richiesta di durante il processo. Dare un indirizzo, un domicilio. Lo sai che domicilio dà il suo avvocato, l'avvocato d'ufficio di questi signori? E l'indirizzo è quello del comune cioè siccome l'indirizzo non perché si può sono dare senza fissa dimora, sì, ma chi sbriga poi le pratiche? Cioè chi sbriga le pratiche di questi signori poi? Cioè, loro danno l'indirizzo del comune. Si chiama avvocato d'ufficio. Del comune come residenza. C'è l'indirizzo del comune, la residenza del comune. È perché si vede che vivono in un campo nomadi. Ma ti pare una cosa? No. Chi sbriga le faccende? Chi distribuisce la posta? Gli avvisi di garanzia, di indagine, gli verranno recapitati o presso il domicilio dell'avvocato o presso il campo dove c'è la roulotte. A Cruciani ha decaduto. Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Antonio da Monza, Antonio, dai. Ciao Parenzo, senti, io ti volevo dire, io quel Concita Wurst e Platinet non li voglio vedere a Sanremo, mi danno fastidio. Anche ma perché? Ma che ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto? Non mi hanno fatto niente, ma mi sembra dei fenomeni di baraccone. Secondo me il presentatore Conti li presenta come dei fenomeni da baraccone, dovrebbero rifiutarsi. Ma è uno spettacolo, non è un convegno. Vabbè, onestamente a me danno fastidio. Mi danno anche Platinet quando parlava la mattina. Cambia canale. Mi dava fastidio con quella voce. Sì, basta che cambi canale. a guardarlo mi dà fastidio una donna con la barba, a me fa impressione. Vabbè, ma cambia canale, te ne fotti, dai, su. Ma perché ti dà fastidio? Ma perché ti dà fastidio? Non ho capito. Perché è un modo di attirare l'attenzione, proprio come la donna cannone, l'uomo con due teste, la donna con la barba. Se a voi piace sta roba qua, ma no, ma è una che canta, ha vinto una gara internazionale. Ma che canta, ma che ha vinto? Ha vinto perché c'ha la, è una donna con la barba. Ha vinto perché è un fenomeno da baraccone, secondo te? Sì, ma ha vinto per quello, mica che ha vinto perché è una brava cantante. Sanremo. E come, poi loro vogliono andare a Sanremo come il gay che si vuole sposare col vestito bello, ma se hanno una vita alternativa, si vivessero la loro vita alternativa senza rompere le scatole a noi. Vabbè, allora per fare i soldi e andare in televisione mi metto le tette, così magari mi... Sì, ma se ci vai tu non nota nessuno, capito? Se lo fai tu devi avere anche un talento, esatto, qualche altra cosa. Tipi da zanzara. Mauro Cuneo. Vai, Mauro. Mao Zedong. Che è Mao Zedong? Prenderne uno per educarne 100. Prendiamo uno di sti cazzo di rom che rubano, lo ammazziamo, lo impicchiamo in pubblica piazza e vediamo se agli altri gli viene ancora voglia di andare in giro a rompere i coglioni. Cioè tu dici la tecnica è quella, eh? La tecnica è quella. Ma, ma a parte rom, che sia rom italiano, svedese, giapponese, africano, sì, australiano. Beh, però a te viene in mente, quando si tratta di rom, chissà perché, o no? Perché alla discussione riguardava i rom, allora... Allora ti è venuta in mente questa cosa. Tu dici colpirne uno. Tu pensa ai familiari di questo qua, quando hanno pianto 5 minuti la morte di questo tipo, che hanno detto: cazzo, possiamo fare più soldi se chiediamo un rimborso di quanto lui ne avrebbe fatto con la rapina. Questo è vero. Perché devo siamo dire, in Italia. Devo dire che anch'io l'ho pensata questa cosa qua, Parenzo. Poi tu sei più cattivo di me, Mauro. Perché effettivamente chiedere il rimborso subito, 2 secondi dopo, è un po' bizzarro. Cioè, no, uno 5 minuti. Che hanno, pensato subito ai soldi questi qua. Scusa, Parenzo. Ma guarda, ottimizziamo anche la disgrazia. Grazie, no? Tanto siamo in Italia, probabilmente. Dunque tu la tua ricetta è questa: colpirne uno per educarne 100. Ecco, giusto? Cioè impicchiamo i rom in piazza. Impicchiamone uno in piazza, giusto? Sì. Uno di questi rapinatori. Un pedofilo, per esempio, castriamolo in piazza. Vabbè, sì, in piazza, in modo di esempio, sì, adesso, magari spogliamolo, Mauro. Prima, no, magari come seguiamo, ISIS, seguiamo sì, il percorso di Mauro. Come l'ISIS dovremmo fare in piazza? Per cosa il Mauro? In piazza come fa l'ISIS, diciamo, di fronte alla gente? No. Beh, quello hai detto tu, però. Scusa, hai commesso un reato. Beh, sì, certo. Anche secondo l'ISIS, quei signori lì hanno commesso un reato, sai. Sì, lasciamo aperto. Beh, è così, però. Formalmente è così. Quelli dell'ISIS pensano che quelli compiano un reato, gli omosessuali. L'altro giorno una pena ne hanno buttato uno, il pilota Giordano, non so di che cosa sono accusati, di apostasia. Allora, invece, Roma, allora... probabilmente è ancora la vittima diventa carnefice, il carnefice diventa vittima in Italia, no? Praticamente gli ha sparato, purtroppo l'ha ammazzato, adesso è lui che probabilmente non so se pagherà o non pagherà, ma probabilmente lui l'assassino. L'altro poverino andava a rubare perché aveva tanto bisogno. Comunque la ricetta di Mauro da Cuneo, che non è Mauro da Manto, ma è colpirne uno per educarne 100. Se c'è un problema del nome Mauro, ma insomma. Va bene, andiamo a Reggio Emilia, Giovanni. Ciao, buonasera. Vai, dimmi. Ascolta, io venivo sull'intervento che aveva fatto un po' Feltri sul, diciamo, paragonare la morte di questo rom. Sì, a un incidente sul lavoro, sì. Ma secondo me stiamo svilendo tutte le morti bianche. Vabbè, adesso è arrivato quello scandalizzato perché Feltri ha parlato di morte sul lavoro. Dai, su. Ma sei troppo intelligente prendere come riferimento un affare del genere. Siete troppi, non potete mandare in trasmissione delle situazioni del genere, che sono davvero svilenti per le morti bianche. Hai paragonato uno che cade da un'impalcatura, ma cosa vuoi? Ma questi qua violano la legge. E purtroppo. No, ma scusa, ma non era un paragone a favore dei rom, era un paragone, quello di Feltri, che era abbastanza chiaro, era, se vogliamo, anche un paradosso. Considerando siccome, un lavoro. Esatto, considerando il rapinatore, la rapina come un lavoro, e allora è un incidente che può accadere, cosa che voleva salvare il benzinaio. Sul lavoro, uno che si fa esplodere in mezzo alla metropolitana, allora un incidente sul lavoro, anche quello lì. Cosa? Beh, di un terrorista, cioè se un terrorista mette nel conto. Beh, certo, un terrorista mette nel conto di essere ammazzato. Nessuno piange se un terrorista muore, no? E lui, tu lo paragoni a un lavoratore, allora. Ma sì, ho capito, ma non è un lavoratore, perché dico che uno che fa l'operaio e cade è la stessa cosa, hanno la stessa dignità. È chiaro che uno che prende la pistola è diverso da uno che con la cazzuola fa una parete, no? Mi pare chiaro, Giovanni, su, dai, sveglia. Luciani, sei troppo intelligente, ti arrampichi sugli specchi. Ma non mi sto arrampicando, a parte che non l'ho fatto io questo paragone, ma l'ha fatto Feltri. È un paragone del cazzo, e sentire che lo fa un giornalista che è ma io non voglio difendere nessuno, è un paragone che ci sta, perché se questo qua va a fare una rapina e secondo lui, e per lui è un lavoro, perché di lavoro fa il rapinatore, uno dovrebbe mettere nella carta d'identità lavoro rapinatore, questo faceva il rapinatore, è andato lì con la pistola in mano, c'è qualcuno che gli ha sparato, è una cosa normale, ci sta, è nel conto. Come lo definisci infortunio sul lavoro? Ma sì, ma è un infortunio sul lavoro, mamma mia, ma sei proprio bigotto, stiamo, stiamo qua a discutere. Penso che sia una bella cazzata, scusami, come dicono le Iene, è una grande cazzata. E vabbè, ho capito, tu la consideri una cazzata, io la considero invece una fotografia perfetta di quello che è successo. Ciao Giovanni, ciao. Ciao, ciao. Cosa vi avevamo detto prima? Don Luigi Negri, qualche giorno fa, arcivescovo di Ferrara, aveva detto, caro Parenzo, che insomma la crisi economica è tutta colpa dell'aborto. Poi ha parlato anche della legge contro l'omofobia, che è un delitto contro Dio. Ma sull'aborto cosa ha detto? Che l'aborto non ha consentito di venire al mondo ad oltre 6 milioni di italiani. 6 milioni di italiani, dice Monsignor Negri, e la scarsità di figli ci ha fatto sprofondare in questa crisi economica. A parte che tutto è una delle teorie che sono in campo, ma non è mica la verità, no? Cioè, quella che dice Negri. Beh, ma tu lo sai che lo ha chiamato il Papa? No. Sì. E tu come fai a avere sempre tutti i nastri? Ma ragazzi, me li mandano, c'è qualcuno che me li manda. Papa Francesco, Papa Francesco ha chiamato Don Luigi Negri. Ma va. Sì, vescovo di Ferrara. E tu hai l'audio? Sì, ho sentito e ovviamente davanti al Papa, che diceva forse è esagerata questa cosa, si è un po' pentito. Senti. Buonasera, segreteria dell'Arcivescovo. Pronto, buonasera. Sono l'Arcivescovo Franchi della Segreteria Vaticana. Vorrei parlare con Don Luigi, o il Santo Padre che vorrebbe conferire con lui. Certamente, un attimo solo. Sì, grazie. Pronto? Don Luigi? Sì. Buonasera, sono Franchi della Segreteria Vaticana. Ho il Santo Padre che vorrebbe conferire con lei un minuto, glielo passo. Buonasera. Pronto? Pronto. Buonasera, Don Luigi. Santità, come va? Disturbo? Assolutamente no. Mi fa piacere. Io, a dire la verità, ho poco tempo, sì, ma ho letto quanto hai detto sulla legge dell'aborto. Sì. Pensi veramente che l'aborto sia la causa della crisi economica? No, non è che una causa diretta. Alcuni economisti sottolineano che la venuta a me, sai, poi quando si. Questo non è un articolo scritto da me, sono delle reazioni a un mio intervento fatto in un convegno. Non c'è una causa diretta e immediata. Certamente il fatto che in Italia, come nel resto dell'Occidente, la natalità sia scesa quasi a zero anche per le leggi sull'aborto, ha messo le condizioni perché la crisi economica avesse la fisionomia che ha adesso. Mi è sembrata lo stesso un'esagerazione nel complesso. Probabilmente ci vuole più prudenza nelle dichiarazioni, Don Luigi. Va bene, lo faccio senz'altro. Non ho problemi. La posizione della Chiesa è chiara, ma noi abbiamo il dovere lo stesso di stare vicini con chi soffre. Ah, certamente. E quindi anche le persone che fanno l'aborto. Certo, ma io non ho mai avuto nessuna preclusione né teorica né pratica. In un contesto di convegno pubblico sulla vita ho richiamato alcune cose, ma questo non va certamente in tutti questi 10 anni di episcopato, non ho mai fatto se non un'azione di vero accompagnamento. Questo glielo posso assicurare, sentite. Mi auguro che in futuro magari ci sarà un po' di più di prudenza. Va bene. Da questo punto di vista. Va bene. Prima di salutarsi, vorrei che pregassimo insieme, sì. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Padre nostro, che sei nei, che cieli. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La ringrazio molto della sua compassione e della sua carità. Don Luigi, buona serata, che il Signore ti benedica. E grazie. La Madonna ti custodisca. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Hai capito, Parenzo? Sì. Mamma mia. Di fronte al Papa, no? Di fronte al Papa anche il Vescovo di Ferrara, no? Abbassa un po', non dico la cresta, però. Insomma, è il capo spirituale della Chiesa. È il capo della Chiesa. Bisogna essere più moderati sull'aborto? Saremo più moderati, certo. Sì, certo, hai ragione tu. Cioè, uno chiama il Papa e ti dice di essere più moderato. Quello che dà la linea, no? Sì. Hanno pure pregato insieme, hai visto? Sì. Beh, è pazzesco. No, vuoi dire, ma è uguale, è un po' come se da noi ci chiama il direttore, no? Chiama il direttore e dice, guarda, cercate di essere. E dice, sì, certo, l'ha detto lui, cioè, no? È uguale, cioè lì il direttore è uguale, dà la linea, no? Non so come dire. Allora, Antonio da Roma, dai, Antonio, vai. Buonasera, mi fate dire, vado col Papa con queste cose, con questi scherzi siete forti, guarda. Niente, volevo dire, no, De Valenzo, purtroppo si ripete la storia di questa difesa 364 di Roma, che del resto creano problemi, e non si può dire di no che non creano problemi. Nessuna difesa dei Rom, non ho difeso i Rom. Il 99% dei furti in abitazione sono dovuti a loro, cioè, non ho difeso i Rom. Sopra i Pulma, i Nero, tutto quanto, è un problema che in ogni caso si deve al razzismo al contrario, perché loro possono fare tutto quello che vogliono, noi sono difesi, tutelati e tutto quanto, e noi nel senso dobbiamo stare attenti anche alla pulce, a tutto quanto, e in ogni caso penso che... Non ho capito, Antonio, secondo te i Rom sono privilegiati rispetto agli altri, non ho capito? Sono più gentili, che possono fare quello che vogliono, forse loro purtroppo non sanno. Poi scusa, c'è un altro discorso, al di là della questione di Vicenza, che è chiara, ci sono della gente che rapinava, secondo me è chiarissimo, non c'è bisogno di fare nessun processo, nulla di nulla, a meno che non insegue, no, non c'è bisogno di fare nessun processo. Hanno processato i criminali che hanno provato a svaligiare a mano armata questi poveri commercianti orafi che lavorano. Allora, la cosa fondamentale è un'altra, la vicenda delle cooperative per lo smaltimento dei rifiuti, no? Che l'assessore a Roma vuole fare. Sì, bravissimo, giusto. Sì, una follia totale. Ma perché una cosa folle? Ma se sono così bravi, diciamo, a pulire, no? Dovrebbero pulire anche i campi Rom, che invece generalmente sono zozzi. Cioè, se fossero così bravi a sistemare l'immondizia, no? La raccolta differenziata. Ma loro sono abili nel prendere da oggetti che la nostra società butta. Loro sono capaci, prendono e riciclano. Questo rubano spesso, non è che riciclano. Sì, anche alle volte rubano. Sicuramente rubano. Sì, questo sicuro. Ad esempio, spesso io passo nella zona vicino al Colosseo per andare al Palatino, cioè da Roma, per chi conosce Roma o a Milano, cioè, e trovi alle volte queste discariche a cielo aperto, no? Con pezzi di frigo della nostra società consumista in cui noi buttiamo lì tutto quello che è. Allora vedi questi qui che arrivano con il loro carrello, arrivano col carrello della spesa, spesso rubato, per carità di Dio. Arrivano, vanno lì. Sì, sì, sì, carrello, spesso lo battono. Recuperano la roba, allora? Aprono lì e recuperano questi piccoli oggetti. Cioè, c'è tutta un'economia sommersa. Ma quale economia? Che può essere, ma che può economia diventare sommersa? Utile per tutti, anziché essere illegalità. Mi fate dire, vanno col Papa con queste cose, con questi scherzi siete forti, guarda. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Io intendo che sto alla gabbia, eri di uno chic, amore mio, con questa sciarpa eri di un sexy pazzesco. Ieri sera eri bellissimo, non avevo occhi che per te. Cruising down on the motorway. Claudio, eccomi. Vai, vai Claudio, vai. Cruciano, senti, partiamo da un fatto assodato, che tu sei un gay e però non hai il coraggio mai di dirlo e vai avanti. Ma guarda, non credo proprio, sono, fieramente eterosessuale, anche se adoro gli omosessuali. Sì, ma no, tu lo sei, ma questo non vuol dire niente, però tutti i giorni, un giorno sì, un giorno ci rompi i coglioni con i gay, come se fosse la problematica italiana. Ma poi chi ha detto che è la problematica italiana? Chi lo dice, chi lo sostiene? Tu sei sempre con i gay in bocca, qui e là, ma poi... Adesso è perché a te fa schifo limonare, a te fa schifo vedere due gay che si limonano in bocca, non ho capito. Che rubano, adesso l'hai presa con i sinti, i rom, eccetera. Io non me la prendo con nessuno. Ma abbi pazienza, siamo un'Italia sbrandellata, divorata da una classe politica che per 70 anni, dai Verdini ai Berlusconi, indagati, pluricondannati, sono qui che ci governano e tu... Vieni qui a creare quasi un odio di classe con i cinti e con i rom. L'odio di classe. Io creo l'odio di classe. Fare? Ma sono io che vado a fare le rapine nelle gioiellerie. Sono io che vado a fare le rapine a mano armata nelle gioiellerie. Sono io che vado a fare le rapine. Ma perché non parli dei ladri della politica che tutti i giorni... Che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra un rom che va a fare un furto? Ma vivono di quello, devono vivere di quello. Vivono di quello, di furti. Perché è una lotta di classe, sai che cos'è la lotta di classe? Ma tu sei fuori di testa, Cruciani, tu sei fuori di la testa. La lotta di classe è questa. E un giorno che invece avremo il coraggio di parlare tutti i giorni della vita che ci rubano i nostri politici, non solo i soldi, da quello che ha la casa e non sa chi gliel'ha regalata o chi gliel'ha ristrutturata. Non c'è... Ha messo in mezzo pure Scaiola adesso questo qua. No, scusa un attimo Claudio, tu mi stai dicendo una cosa assurda, è caduta la linea con questo imbecille? Allora, Claudio mi sta dicendo una cosa molto semplice, che secondo lui la questione è la lotta di classe, siccome quelli sono poveri in canna, sono diseredati, sono miserabili, non guadagnano un euro, non hanno un posto di lavoro, fanno bene a fare le rapine, ma questo nemmeno Caruso lo dice adesso, perché sei imborghesito, è diventato professore universitario, non può dire una parola di troppo, nemmeno Caruso riesce a dirlo che abbiamo intervistato all'inizio, io speravo che lo dicesse ovviamente, ma non l'ha detto perché non lo vuole, magari lo pensa, ma non lo dice più perché sei imborghesito. Claudio De Lucca invece sostiene che ci sono i rapinatori, i rom rapinatori per questioni di classe. Ma c'è questo Claudio o no? Non c'è. Maurizio da Pordenone, dai. Maurizio. Sì, buonasera. Volevo dai. Solo portare una mia esperienza recente avuta con questa gente, purtroppo. Non è per cadere in luoghi comuni, ma sono abbastanza frequenti i casi in cui insomma violentano, uccidono, rubano eccetera. Io sono un agente di commercio e purtroppo per un affare non concluso positivamente mi ritrovo a subire minacce telefoniche, tra l'altro dalla moglie, che mi appunto minaccia di mandare il marito a cercarmi per l'ufficio e quant'altro. Ma perché? Ora, scusa, non ho capito. Cosa c'entrano i rom con questo però? Appunto, cosa c'entrano i rom? Poi si viene a scoprire, cioè, che chi è che riceve minacce? Lei? Lei? Io. Cioè, io, tu io, ricevi minacce per quale motivo? Appunto, l'accordo che avevamo siglato purtroppo poi non è potuto concretizzarsi. Ma con chi? Con chi? Con questa famiglia rumena che poi in realtà... Ho capito, ma i rumeni non è che sono uguali ai rom, eh? Cioè, i rumeni, questo è romeno. Ci sto arrivando. Oppure sto sono arrivando. Sinti, sono rom pure questi. Ci sto arrivando. Vivono vivono esattamente come questi rom. Poi per vie traverse sono venuto a sapere che sono in cinque in casa, non pagano l'affitto, l'impresa del marito è fallita, quindi una serie ma sono rom o no? Non ho capito, sono semplicemente dei criminali rumeni oppure della gente sbandata rumena? Poi non ho capito, con chi fai gli accordi tu? Con un'azienda in forma di prima, no? Ho capito, io non posso sapere che un negozio di abiti da sposa abbia dietro un giro del genere, però. Vabbè, comunque il problema è che ti stanno minacciando? Mi hanno minacciato, sì, fino a questa settimana. Rivolgiti alla polizia, o no? Ma assolutamente, l'azienda ormai è stata avvisata. Ma questo perché ci racconti questo episodio di vita personale? Per carità, va benissimo, di vita privata, di vita commerciale, di vita lavorativa, perché? Perché credo che sia nella loro indole, ecco, avere questo tasso di aggressività, di violenza, se vogliamo, di poco rispetto per il posto in cui vivono le persone che fanno loro lavoro. È l'ennesima dimostrazione, le minacce, a parte che le minacce le fanno pure gli italiani ogni tanto, non è che le fanno solamente i rumeni o i romo, i sinti, che ogni tanto sono italiani pure loro. Caro Parenzo, c'è una cosa molto curiosa, sto cercando di capire se è in linea, ma c'è qualche difficoltà forse. C'è la vicenda dell'Orango e di Calderoli e di Cecil Chieng, no? Dell'ex ministro dell'integrazione. Sì, sì. Il Partito Democratico, non so quanti, 2, 3, 4 senatori, hanno votato contro l'incriminazione di Calderoli. Per me è una follia portare Calderoli in tribunale per una cosa del genere, per aver dato dell'Orango alla Chieng. Per te evidentemente no. Ma io non capisco come il Partito Democratico abbia potuto votare contro l'incriminazione di Calderoli. Cecil, ci sei? Cecil Chieng, buonasera. Buonasera a tutti. No. Come va? Come la va? Poteva andar bene senza questa notizia. Vabbè, allora la questione è molto semplice. Sì, riassumila con correttezza. Il però. Senato, la giunta del Senato, non ha autorizzato il processo contro Calderoli, che ha pronunciato la famosa frase: quando vedo la Chieng non posso non pensare a un Orango. La cosa incredibile di questa decisione del Senato è che in realtà hanno negato il processo, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Calderoli, tutti i partiti tranne i 5 Stelle, dunque compreso il Partito Democratico. No, in realtà non tutti hanno votato in quella direzione, ma quella fetta di senatori del mio partito che ha votato ha dato la maggioranza. E chi è che ha votato? Chi è che ha votato a favore di Calderoli, diciamo, del tuo partito? È il senatore Cucca e Moscardelli. Ma ti senti un po' abbandonata dal Partito Democratico in questa vicenda con Calderoli? Quello che mi manca, il passaggio che mi manca, che io non accetto il sostegno, le scuse morale, il sostegno morale, no, verbale, scusatemi, di una persona che può concretamente cambiare culturalmente una legge, un passaggio, ma che mi fa a voce una dichiarazione e poi dentro vota in un altro modo. Questo è senza scusante, anche perché. E chi è che l'ha fatto? Chi è che l'ha fatto? Chi è che ti ha detto a voce? Chi è che ti ha dato solidarietà a voce e poi invece ha votato in un altro modo? Sia io Cucca... ho sentito le parole di Cucca, poi di Moscardelli non l'ho sentito. Ho sentito in un'intervista, sì. E io non li accetto. Perché difendono Calderoli secondo te? Perché lo conoscono? Perché... La mia impressione è che si sottovaluta parecchio questo tema. Qui non si trattava di valutare Calderoli, si tratta di valutare le parole del senatore Calderoli in quanto rappresentante delle istituzioni, sì. E quelle parole devono dare un limite tra quello che è l'immunità parlamentare e quello che è una cioè quelle parole per te sono parole razziste secondo te, punto e basta, no? Sono stati perseguiti per legge d'ufficio. Però ti senti un po' scaricata, perché la realtà è che tu sei stata questo è il mio parere, sei stata usata dal PD come testimonial dell'antirazzismo, dell'integrazione, e poi arrivato Renzi sei stata scaricata. Cioè, questo è un po' il punto di vista dal di fuori. Io purtroppo, chi mi conosce sa che non... Ma non ti senti scaricata da PD? Assolutamente, io no. Ma perché io pretendo, siccome io sono iscritta al PD dal primo giorno, e quindi pretendo di più dal mio partito. Ah, ecco, pretendo di più dal mio partito. Ci sono razzisti anche nel PD? Ma io credo che i razzisti sono un po' ovunque. Quando non si riconosce... Non si capisce la definizione prima di tutto della parola razzista, perché negli ultimi tempi la si sta svuotando proprio del vero significato. E dunque esistono anche nel PD i razzisti, evidentemente. Ma esistono ovunque, esistono dappertutto. Anche nel PD? Cioè tu puoi dire tranquillamente che i razzisti esistono in tutti i partiti? Anche, certo. Io dico tranquillamente, non ho niente di così, perché poi è una sensibilità personale, cioè non è... In tutti i partiti esistono i razzisti, vabbè. E ci sono, perché è una cosa di codice deontologico, cioè... nel proprio DNA, però o c'è o non c'è. Ma secondo te la persona politicamente più razzista in questo paese, in Italia, chi è? Cioè, proprio quello che appena apre bocca, appena lo vedi, tu dici, ecco, questo qua è il simbolo del razzismo, chi è? Ah, uno che inizia la propria frase dicendo, io non sono razzista, ma... E cioè chi è? E quindi... No, non lo posso individuare in una persona. Che ne so, io vedo, Salvini? Per esempio, Salvini il guarda, Salvini ha fatto i suoi calcoli, cioè lui ha fatto i suoi conti scientificamente, politicamente, per lavorare su una cultura che era già una cultura alterata di quello del loro elettorato che avevano perso. Era cioè un razzista razionale, dici, un razzista scientifico, un razzista calcolatore. Calcolatore, fatto ai fini elettorali. Consideri Calderoli un cavernicolo? Ma io non scendo a questi livelli, è difficile trovare. E come lo definisci? Come lo definisci? Un ignorante? Un involuto? È un umano. Un umano? È una persona umana. Un essere umano? Perché vuol dire? Umano, a partire dalla razza umana. A partire dalla razza umana. Esatto. Grazie, ciao. Beh, devo dire straordinaria la definizione. Mentre Calderoli dà dell'orango alla Chienghe, la Chienghe dice Calderoli un umano. Io non ho mai sentito, perché di solito si aggiunge un essere umano, invece lei dice un umano. Umano. Allora, uno mi scrive su Twitter: se David Parenzo non fosse finto come una banconota da 3 euro, prenderebbe una bella zingarella come babysitter. Non credo. Ma perché non prendi una zingarella come babysitter? Ma non mi sembra che offri un lavoro? Offri un lavoro agli zingari, ai tuoi amici rom. Abbia il curriculum adeguato. Che ne sa, come no? Sono pieni di bambini. Se c'è una cosa che sanno fare. Sì, però no, ecco, diciamo, quel modello di educazione di portare il bambino nelle metropolitane a suonare. Non è che devi portare per forza tuo figlio a suonare nelle metropolitane. Tu dici che credenziali ha la signorina? Dai lavoro, come no? Grandissime credenziali. Io so portare i bambini, dico sì, guarda, io preferisco le porti al parco piuttosto che in metropolitana a suonare. Ti sbagli. Hanno moltissime credenziali da questo punto di vista, possono tranquillamente allattare volendo, certo deve avere il latte, bisogna, dunque è diverso, però comunque possono dare il latte, possono cullarle, sono piene di bambini le donne rom, per cui se vuoi trovare lavoro e togliere i rom dalla strada, adesso non è che dipende da me solo, anche prenditi una bella zingarella come babysitter per il piccolo Elia Nathan, allevato da una zingarella, amico mio, il piccolo Elia Nathan. Mi pare una cosa che abbraccio fortissimo, ovviamente. Do un bacio sulla fronte, anzi sulla fronte, piccola Elia Nathan. Bacio del porco. No, ma che bacio adesso, bacio di dello zio Cruciani. Ma guarda la quale zio. Stefano a Firenze, vai Stefano. Sì, buonasera. Vai. A proposito di Calderoli, la chiesa. Già il fatto che i nostri politici perdano tempo a discutere di Calderoli e della Chienghe, questo insomma è... No, ma la magistratura più che altro, o la giunta, io sono di quest'idea, Calderoli dovrebbe affrontare a petto nudo all'infuori, vediamo se c'ha pure i peli magari come gli orango, cioè a petto nudo il processo, questo lo dico chiaramente, cosa che non ha fatto. Rifugiarsi dietro l'immunità parlamentare è una cazzata, cioè Calderoli è uno tra l'altro che di solito ha dimostrato di avere le palle in diverse occasioni, no? O comunque ha fatto capire di averle, allora affronti il processo. Secondo me è una follia il processo, è una battuta e non c'entra razzismo, non c'entra assolutamente nulla. Però comunque la Chienghe ha fatto l'ha messo sotto processo, l'ha denunciato e i giudici hanno deciso veramente non hanno deciso niente in realtà ancora. Comunque rifugiarsi dietro l'immunità parlamentare è un errore. Se lui è convinto che quella frase non è razzista, vada, rinuncia all'immunità parlamentare su questa cosa qua. Rinuncia all'immunità parlamentare, a parte lo scandalo del Partito Democratico, e affronti il processo a testa alta. Calderoli, gli do un consiglio a Calderoli. Vai. Chi era? Voleva fare un discorso un po' più Stefano, sì, dai. Aperto sul fatto dei rom, no? Che siano rom, che siano romeni, algerini o tunisini, che siano. C'era una persona anni fa che diceva rispetta le nostre leggi, condividi i nostri valori e se non lo fai torna a casa tua, barchetta, cammello e a casa. Vabbè, questo che c'entra, questi sono spesso, questi rom purtroppo sono italiani, dico io, sono italiani che vivono in maniera diversa dagli altri italiani, e questo è il punto fondamentale, che non seguono le stesse regole. Gli italiani di solito hanno un indirizzo, questi invece hanno un indirizzo in comune, hanno un indirizzo, hanno un lavoro, di solito poi ci sono i disoccupati chiaramente, si trovano la casa in maniera normale, questi qua invece hanno un'altra cultura, un'altra tradizione che secondo me è incompatibile con la vita moderna. Cioè con la vita normale di società, perché uno non è che può avere come indirizzo il campo Rom, non può avere questo indirizzo, per cui i campi Rom vanno smantellati, ma mica per metterli a rogo, semplicemente perché devono essere trattati come tutti gli italiani, invece certo. No, ci sono le cooperative dietro che ci mangiano sopra, eccetera, non eccetera. Tutte. Vabbè, Stefano, allora? Io credo che l'1% degli abitanti dei campi Rom sia italiano, il resto non sono sicuramente italiani. Non ma hanno no, lavoro. Molti sono italiani in realtà, sono diventati italiani, come no? Marco da Napoli, vai, ho capito Stefano, Marco da Napoli, vai. Ciao, buonasera. Vai, veloce, buonasera. vai. Ciao, no, io volevo soltanto, diciamo, riprendere quel discorso che hai fatto tu, no? Veloce però, che stiamo chiudendo, senti la musichetta sotto, sì. No? Sì, sulla carta d'identità uno dovrebbe scrivere delinquente. Beh, io non credo che però, al di là del Rom, di chiunque lo faccia, non voglio proprio entrare in questa situazione, non è una scelta, capisci? Perciò l'intervento di Feltri è stupido, perché non è scusa, una Marco, il punto fondamentale, non è una scelta fare il rapinatore, dice Marco. No, però, per me no. Ma sì, Marco, poco importa, cioè non è che se uno fa il rapinatore può dire no, però io lo faccio perché non ho da mangiare, dunque sei un po' salvato da questa roba qua. Fai il rapinatore, punto e basta, come mestiere faccio il ladro, punto. Cioè, ma è chiaramente un paradosso quello di Feltri, dice siccome il mestiere del rapinatore ci sta in questo mestiere di prendersi una pistolettata, è un incidente sul lavoro. A lunedì 18:30, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ah, disgraziato! Radio 24. La passione si sente.